Euroreportage. ITER. L'Europa punta sul nucleare sicuro. Di Sergio Nava. Bentrovati dalla Maresme. Siamo sul lungomare di Barcellona, un po' fuori dalla città, dal centro storico. Siamo venuti qui per raccontarvi un progetto europeo e internazionale che potrebbe rivoluzionare da qui a 30-40 anni il modo di produrre energia: la fusione nucleare. L'Europa è impegnata, attraverso il progetto ITER e Fusion for Energy, a rendere questo possibile. Vi spiegheremo come, con le voci anche di molti italiani che attivamente lavorano da qui, da Barcellona, per dare un nuovo futuro alla produzione energetica. ITER is bringing us closer to developing a new source of energy. ITER ci avvicina allo sviluppo di nuove forme di energia sostenibile. Stiamo passando dalla fase di ricerca e sviluppo a quella della produzione effettiva di energia. ITER, quando sarà operativo, produrrà mezzo gigawatt di energia, che equivale all'energia di una tipica centrale. Così ci spiega Eric Binslev, direttore di Fusion for Energy. Binslev aggiunge: ITER non produrrà tecnicamente elettricità, ma si avvicinerà molto alla tipologia di una centrale di produzione elettrica, con tutte le sfide tecniche e scientifiche del caso. L'Europa gioca un ruolo fondamentale in questo progetto. Noi forniamo circa la metà del materiale per la costruzione di ITER grazie al nostro know-how, eppure le industrie europee stanno giocando un ruolo importante, ne beneficeranno sia nel breve che nel lungo periodo. Per l'esattezza, l'Unione Europea sta contribuendo per una cifra pari a 6,6 miliardi di euro. In maggioranza il progetto viene finanziato dal bilancio comunitario, mentre la Francia, che ospita la sede del reattore, contribuisce per il 9%, così come gli Stati Uniti. A Binslev chiediamo quando la fusione nucleare potrà passare dalla fase sperimentale a quella di produzione di elettricità vera e propria. L'obiettivo finale, secondo il progetto, è arrivare a 500 megawatt di energia su periodi di 7 minuti. ITER è solo la prima tappa, dice Binslev. Dopo ITER costruiremo demo, il reattore dimostrativo, quindi sarà il momento della fase finale di industrializzazione. Possiamo ipotizzare il 2050, quale data per l'avvio della produzione di energia elettrica. Insomma, la seconda metà del secolo. È una grande sfida. La fusione nucleare dovrà entrare a far parte delle fonti di produzione energetica per contrastare il cambio climatico mediante fonti di produzione pulita. La fusione nucleare ha tutto il potenziale per diventare la maggiore fonte di produzione energetica, conclude Binslev. Binslev ci saluta parlando della collaborazione con l'industria europea. Vogliamo adattare il nostro modo di lavorare a quello degli standard dell'industria comunitaria per avvicinare la collaborazione tra ricerca e impresa. Tra poco vi racconteremo quanto è stretto il legame con le imprese italiane che si sono aggiudicate importanti maxi commesse. Prima però continuiamo a indagare il tema della fusione nucleare, quale energia per il futuro. Futuro lontano, anche se non lontanissimo. Gabriella Seibene, capo unità del settore ingegneristico antenne e plasma, ci spiega cos'è nel concreto la fusione nucleare. Il motore per la produzione di energia da fusione è il plasma. Il plasma è gas di idrogeno che viene riscaldato a temperature estremamente elevate, dell'ordine delle decine o centinaia di milioni di gradi, e quando questo riscaldamento avviene gli atomi si separano e i nuclei di questi atomi cominciano a collidere. Normalmente quando c'è una collisione è come due palle da biliardo, le cose rimbalzano, ma se questi atomi sono caldi abbastanza si possono fondere. Quando si fondono c'è una fortissima produzione di energia. E questa energia, che viene prodotta sotto forma di particelle energetiche, può essere usata per produrre elettricità e anche per riprodurre il combustibile che viene usato nella reazione di fusione stessa. E questa è una cosa molto speciale della fusione. Questo, per fare un paragone, sarebbe come se quando uno ha un motore a scoppio di una macchina, il gas di scarico passa in una marmitta speciale che quando il gas passa di lì produce benzina, che sarebbe molto bello perché ti rimetti la benzina nel motore. Questo è quello che si può fare in un reattore a fusione. Esperimenti con il combustibile che sarà usato in ITER se ne sono stati fatti essenzialmente due nel mondo. Vari esperimenti in jet per la comunità europea e anche esperimenti negli Stati Uniti in un reattore a Princeton. Questi esperimenti hanno raggiunto un fattore di guadagno che si chiama Q grande dell'ordine di 1. Questo vuol dire che la quantità di energia che viene usata per produrre questi plasmi è uguale a quella che viene prodotta dal plasma. Nel caso di ITER, lo scopo è di produrre un fattore Q grande di 10, cioè un fattore di amplificazione dell'energia di 10 volte. Ho detto 1 e ottengo 10. In poche parole, sì. Il progetto ITER è un progetto, come dicevamo, mondiale. La costruzione del reattore a fusione nel sud della Francia, a Cadarache, vede impegnata soprattutto l'Europa, che detiene il 45% delle quote. Coinvolti pure Stati Uniti, Russia, India, Cina, Corea del Sud e Giappone. Fusion for Energy, il cui quartiere generale si trova a Barcellona, è nei fatti il braccio operativo europeo all'interno di ITER. Si coordina quotidianamente con gli equivalenti bracci operativi disseminati nei vari continenti per assemblare il prodotto finale ITER, per l'appunto. Ma quanto è sicura la fusione nucleare rispetto alla fissione che già conosciamo? Possiamo pensare a un nucleare in futuro meno pericoloso? Lorenzo Perna è responsabile del monitoraggio radiologico e ambientale e dei residui radioattivi all'interno di Fusion for Energy. Nel reattore a fusione nucleare non c'è reazione a catena. Di conseguenza la quantità di combustibile all'interno della camera del reattore è sempre molto molto bassa, soprattutto nella fusione. E di conseguenza se ci fosse una breccia, se ci fosse un pericolo, la reazione si interrompe, come il motore di una macchina: se te non c'è benzina il motore si spenge, e quindi non è possibile che abbiamo delle situazioni tipo quella di Chernobyl o quella di Fukushima, anche perché se si aprisse una breccia immediatamente il plasma si spengerebbe, quindi la reazione verrebbe immediatamente fermata. Quindi potremmo definire, chiaramente siamo ancora in una fase di ricerca, però una fusione sicura al 100%? Sicura al 100%. Il massimo, anche nel caso in cui ci fosse il massimo, l'incidente più grave, che per noi vuol dire si apre una breccia nella camera di reazione, la quantità di trizio all'interno della camera è tale che non ci sarebbe neanche il bisogno di evacuare la popolazione circostante. Spieghiamo anche cos'è il trizio. Il trizio è un isotopo dell'idrogeno e insieme al deuterio è il combustibile iniziale che viene iniettato all'interno della camera di reazione, che quindi dà la reazione di fusione fra deuterio e il trizio, per cui si scaturisce questa grande quantità di energia, che è quella che viene utilizzata poi dovrebbe essere utilizzata per la creazione di energia elettrica. E c'è pure il problema dei rifiuti della fusione. Per Perna la differenza principale tra fissione e fusione nucleare è che, in quest'ultimo caso, i rifiuti possono decadere dal loro livello radioattivo entro soli 100 anni. Nel caso della fissione, osserva Perna, servono invece milioni di anni. Ma entriamo ora nel cuore di ITER, la camera da vuoto dove l'energia viene materialmente creata e sprigionata replicando la produzione di energia presente sul Sole. Un gioco estremamente delicato permette la creazione di energia. Un ruolo fondamentale lo giocano i magneti, come ci spiega Marcello Lo Sasso, Project Team Leader per i magneti. Bisogna immaginare la macchina ITER, che si chiama tokamak fondamentalmente, come una scatola nella quale si cercano di simulare le condizioni che ad esempio fanno funzionare il Sole. Ora, quindi dobbiamo immaginare un plasma che è estremamente caldo, estremamente hot, e è necessario quindi che questo plasma sia mantenuto lontano dalle pareti di un qualunque contenitore, altrimenti questo contenitore semplicemente evaporerebbe. Quindi i magneti toroidali e i magneti poloidali contribuiscono a mantenere confinato questo plasma lontano dalle pareti della camera da vuoto, del cosiddetto vacuum vessel. Il vacuum vessel è un altro componente fondamentale della macchina, dove è un componente cosiddetto anche nucleare, perché è il componente all'interno del quale appunto avvengono le reazioni che portano alla fusione, e questo componente è estremamente massivo, estremamente complesso, estremamente integrato con tutti gli altri sottocomponenti della macchina, e sono abbastanza orgoglioso di dire che probabilmente è stato il più grande contratto che nella storia della fusione è stato firmato. E oggi c'è un consorzio italiano di 3 ditte che stanno lavorando con successo alla realizzazione di questo componente. Sono Ansaldo Nucleare, Walter Tos, Busto e Mangiarotti, quindi in tre diverse località in Italia, stanno realizzando questo importante componente. E l'Italia gioca un ruolo fondamentale in ITER e Fusion for Energy, non solo, come avete appena potuto ascoltare, la gestione europea del progetto vede al lavoro numerosi italiani, il 22%, pensate, della forza lavoro a Barcellona, ma pure importanti commesse sono state appaltate ad aziende italiane dopo competizioni internazionali molto serrate, come ci spiega Alessandro Bonito Oliva, group leader per la costruzione dei magneti toroidali. I magneti toroidali sono uno dei componenti, diciamo, più grandi e complessi, diciamo, essenziali per il funzionamento della macchina. Sono dei enormi magneti superconduttori a forma di D maiuscola. Ce ne sono 18 nella macchina, sistemati a forma di ciambella, e hanno il compito di essenzialmente confinare e compattare il plasma. È importante che il plasma raggiunga una certa densità perché si inneschi la fusione, e i magneti toroidali hanno questa funzione principale. Questi magneti toroidali essenzialmente verranno costruiti attraverso tre grandi contratti industriali. Due di questi sono già piazzati, quindi in corso, e un altro sarà piazzato nel giro di 5-6 mesi. Il primo contratto, che è un contratto che è stato assegnato a un consorzio di due ditte spagnole e una italiana, quella italiana è la SG di Genova, che è responsabile per più del 90% dello scopo di questo lavoro, ed è un contratto di circa 160 milioni. Il secondo contratto, che di nuovo è di circa 160 milioni, assegnato a un consorzio composto da una ditta italiana, che è la Simic di Camerana, e una ditta francese. È interessante notare la presenza italiana, è dovuto anche a una capacità tecnologica che hanno le nostre aziende. Dunque, diciamo, nel campo dei magneti superconduttori l'Italia ha svolto sempre un ruolo, diciamo, sia a livello europeo che a livello mondiale, diciamo, di leadership. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.